Se ci sarà ancora un 12 gennaio 1993, non perdetevelo, segnatevelo perché è l'appuntamento per la ripresa della caccia. Tenteremo di essere qui martedì 12 gennaio alle ore 20:30. Nel frattempo vi ringraziamo per l'ascolto di questa sera e non solo, ma di tutto l'anno. E grazie a Walter per tutta la fatica che compie tutti i martedì sera per dirigerci e per darci la musica più opportuna. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buone feste se ci riuscite. E che la prosperità vi accompagni.